Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sergante, il traghettatore, buongiorno. Puntata un po' critica, oggi parliamo e un po' ci angosciamo di bambini, di minori, sotto due aspetti. Il primo riguarda l'internet, l'uso dei minori. Secondo un'indagine di Save the Children, l'8% dei minori mette le proprie foto sexy sul web, sono soprattutto adolescenti che lo fanno, e il 22% di questi ragazzi ammette che è una pratica molto diffusa. Attenzione quindi, mi raccomando, parlate con i vostri figli e spiegate bene il senso di internet e il senso di questi azzardi. I bambini altri invece hanno problemi più seri, e ne parliamo con Marco Griffini, presidente di Amici dei Bambini. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Questa crisi che travolge e sconvolge sta soprattutto schiacciando una delle attività, come dire, più difficili, più angoscianti anche, ma anche più meritevoli, quella dell'adozione dei bambini. Stanno crollando le adozioni dei bambini, è così presidente? Sembra quasi che sia passata la voglia di avere dei figli, ma in realtà non è così, perché vediamo che le inseminazioni e le fecondazioni su figli stanno aumentando. Purtroppo invece dal 2006 è calata questa richiesta delle adozioni nazionali e internazionali, ma a livelli impressionanti, perché in 4 anni c'è stato un crollo del 30% per le internazionali e addirittura del 40% per le nazionali. E quindi noi siamo molto preoccupati, perché dall'altra parte stanno aumentando i bambini abbandonati. Siamo passati, secondo stime UNICEF, dai 148 milioni del 2004 ai 168 del 2010, quindi con un aumento vertiginoso di 5 milioni all'anno. Quindi che cosa fare? Ci siamo interrogati sulle cause. E le cause, dai sondaggi che abbiamo fatto sulle famiglie, sono essenzialmente di due tipi: uno di ordine economico, per quanto riguarda l'adozione internazionale, e l'altro, anche per la nazionale, di questa complessità dell'intervento. L'ordine burocratico, come al solito in Italia. Per cui veramente le coppie sono addirittura spaventate. Addirittura rinunciano ad iniziare l'iter adottivo, e questo è molto preoccupante. E questo spiega anche perché il 40% di coppie che rinunciano in Italia, spaventate non tanto, non solo dalla crisi, dai soldi, piuttosto che dalla difficoltà di relazione con questi bambini, ma proprio da quello che devono spendere in inutili scartoffi, insomma. Sì, certamente, perché la relazione nazionale è gratuita, però nonostante questo vediamo che c'è un crollo addirittura superiore all'internazionale, quindi in maniera paradossale, perché l'internazionale si paga. E allora è proprio l'accento, noi lo stiamo ponendo anche alle istituzioni sul fatto di accelerare, di risolvere alcuni nodi problematici. Per esempio, l'Italia è rimasto l'unico paese europeo, insieme al piccolo Belgio, ad avere questo retaggio medievale del passaggio dell'idoneità dal Tribunale dei Minorenni, cosa che fa perdere soldi allo Stato, perché insomma noi abbiamo stimato che questo passaggio ai tribunali ci costa quasi 20 milioni di euro al comparto Italia, no? Ma soprattutto fa perdere anche un anno e mezzo di tempo. Scoraggia la gente. Beh, presidente, comunque noi chiudiamo sperando che qualcosa, si tratta di fare attività politica e pressione, lobbying sulle istituzioni, perché semplificano. Queste due fondamenti: più adozione, più famiglia. Eliminando questi passaggi burocratici e addirittura arrivando all'abbattimento dei costi fino alla gratuità per quanto riguarda le famiglie meno abbienti. Cosa che è possibile fare razionalizzando il tutto. Intanto che questo avviene, perché comunque qualche speranza che le cose si stiano muovendo ce l'abbiamo tutti in questo paese, intanto incoraggiamo le persone che ci ascoltano comunque a muoversi. Sono tanti bambini che hanno bisogno di loro, ma anche loro hanno bisogno dei bambini. Qual è il contatto che segnaliamo per avviare questa pratica? Bambini, abbiamo un sito molto molto molto completo, molto bello da guardare, che è www.aidi.it, Amici dei Bambini. Amici dei Bambini. Grazie presidente, e invitiamo i nostri ascoltatori a dare un'occhiata. Chiudiamo con Donne del Sud, del Mondo ed Economia Solidale, una mostra che vi suggeriamo di andare a vedere al Castello d'Albertis, che è il Museo delle Culture del Mondo di Genova. È aperta e durerà fino a marzo. Ci sono in esposizione progetti di commercio equo e solidale, tessuti, spezie e cibi tradizionali. È importante per i ragazzi, infatti l'attività delle scuole è gratuita, e ci sono anche dei laboratori che vengono organizzati quotidianamente. La mostra è organizzata dalla Bottega Solidale. Grazie di averci ascoltato, vi ricordo ferribot@radio24.it per segnalare le vostre iniziative, e alla nostra pagina Facebook. Grazie ad Anita Panizia, redazione, e a Filippo Aureggi in regia. Buona giornata.